C'è Trippa per Gatte, la trasmissione di oggi, il sottotitolo è Bruca per femministe lesbiche, amanti, poete, guerriere e chi più ne ha più ne metta. Bruca, bruca, perché bruca? Perché oggi facciamo un gioco, andiamo a leggere le citazioni della Bruca, il sillabario della sotterraneità, un libro del 1979 scritto da Lara Foletti e Aleandra Trentini, che hanno raccolto, messo insieme slogan, citazioni, frasi, idee, pensieri di, credo, loro stesse e anche di molte altre scrittrici. Si va dalla A di ambizione fino alla Z di zoccolo, che è definito la P38 del nuovo femminismo. E appunto il repertorio delle citazioni spazia dai classici, anzi dalle classiche quali Sappho e Virginia Woolf per esempio, alle autrici del movimento femminista, oramai per noi anch'esse delle classiche come Carla Lonzi, Germaine Greer, Lucy Rigarai e altre più o meno note, anzi ce n'è qualcuna anche un po' meno nota e anche un po' meno comprensibile. Buon ascolto! Standing. ambizione. La nostra ambizione è cambiare il mondo. Autocoscienza è interrogarsi, è come una seconda pelle un po' scomoda, è vedere con i propri occhi, è una nuvola grigia che si trasforma in rosa, è scoprirsi, è amarsi, è accettarsi e verificarsi. Autocoscienza è l'inizio, autocoscienza è bello, autocoscienza è tutto, autocoscienza è dimenticarsela. Amazzoni. Un gran numero di città vantò un'amazzone come fondatrice e madrina. Smirne, Sinope, Cimi, Gringe, Pitania, Magnesia, Cleto, Mitileni, Amastri. In tempi ancora più remoti, le amazzoni libiche, marocchine e africane attraversarono pacificamente l'Egitto a cavallo e lo conquistarono. Conquistarono la Siria, la Frigia e tutte le terre lungo la costa sino al fiume Caicus e le isole di Samo, Lesmo, Patmo e Samotracia furono conquistate e abitate da Mirine, una regina amazzone libica. Phyllis Chesler. Autocritica. Il sessismo è come l'emofilia, tocca solo gli uomini, ma chi lo trasmette sono le donne. Laurence De Onna. Attenta. Attenta all'uomo che scrive lettere d'amore fiorite, ti prepara ad anni di silenzio. Attenta all'uomo che ti sembra indifeso, ti coglierà di sorpresa. Attenta all'uomo che inneggia alla liberazione della donna, sta pensando di lasciare il lavoro. Erika Young. Animali. Un animale che sapeva parlare disse: l'umanità è un pregiudizio di cui, se non altro, noi animali non siamo vittime. Bestie umane, non presteremo orecchio ai vostri ripetuti appelli per la costruzione di un mondo nuovo fino a quando riconosceremo questa vostra crudele mancanza di rispetto per tutte le forme di vita diverse. Ci riferiamo soprattutto agli animali, senza dimenticare le piante. Ah, bicicletta, bicicletta è un classico. La donna senza un uomo è come un pesce senza bicicletta. History and pray we don't repeat it. boicottare. Usate con giudizio il vostro nuovo potere. Le suffragiste non hanno lottato 70 anni per farvi diventare serve di partiti degli uomini. Mrs. Oliver Hartzog P. Bilton, 1920. Clitemnestra. Il nome Clitemnestra ha una medesima radice di clitoride. Nel nome di questa donna uccisa dal figlio Oreste appare palese la clitoride come simbolo della voluttà femminile consapevole. Clitemnestra fu una donna potente del mito greco che azzardò una rivolta. Clitoride. L'accostamento della clitoride alle figure greche, alla ginestra e alla conchiglia è strumentale per la comprensione della struttura del sesso femminile e vuole essere un invito ad una espressione della sessualità in proprio che è stata negata fino ad ora alla donna. Non vuole destinare un sesso o all'altro qualità determinate. Cromosoma Y. Mi piace immaginare il cromosoma Y come un cromosoma X non sviluppato, o forse come un residuo di un cromosoma X, quasi che nel corso del processo evolutivo sessuale un frammento di tanto in tanto si distacchi da un cromosoma X portandosi dietro alcuni geni sfortunati. Dopo di ciò non ha la forza di impedire che gli altri cromosomi si sviluppino, formando una femmina incompleta che noi chiamiamo maschio. È probabile che gli svantaggi biologici del maschio siano dovuti non tanto a quel che contiene il cromosoma Y, ma a quel che non contiene. Alcuni di questi svantaggi a proposito sono la minore resistenza del maschio alle malattie, la minore longevità del maschio rispetto alla femmina. Ah, la D c'è 2 dicembre 1977, manifestazione sindacale metalmeccanica in cui le donne della categoria si sono organizzate in uno spezzone autonomo, separato. Compagna, non gioco se non saluto col pugno, se non urlo contro il governo e non sbrano quella disgraziata di Tina Anselmi. Compagna, non gioco se sul viso è il mio e il tuo simbolo dipinto. Se tu gridi aborto libero e io vasectomia libera e gratuita, non gioco compagna, lotto per me, lotto per te. E guarda caso, la mia rabbia è talmente tanta che oggi ho anche permesso ai maschi di usarla per la lotta di classe. La sapessero almeno fare, sapessero quanta ne ho, mi scoppia dentro e tu non la vedi. Non la vedi compagna, perché ti hanno insegnato a riconoscere solo certe forme di lotta. Questa, che è la mia e la tua e di tutte le donne, la guardi incredula e sospettosa e cerchi di coprire i miei slogan gridando più forte e guardandomi male. Paola Manca. Dialettica. La dialettica servo-padrone è una regolazione di conti fra collettivi di uomini. Non prevede la liberazione della donna, il grande oppresso della civiltà patriarcale. Sputiamo su Hegel. Egoismo, un po' di sano egoismo sarebbe un piacevole cambiamento. Firestone. Fate, le fate hanno le mani pesanti. Manifestazione contro la violenza. Fragilità, La libertà è fragile, deve essere protetta. German Greer. Frigidità. La nonna non era frigida, ma separatista. Movimento femminista romano di via Pompeo Magno. Fallo, sinonimo di errore. Fame, riso e rose. Come può la testa chiedere fiori se lo stomaco chiede un pugno di riso? Antico detto cinese. Figlie. Noi non diamo figli ad alcuno, né all'uomo né allo Stato. Li diamo a loro stessi e restituiamo a noi stesse. Sputiamo su Hegel. Felicità. La felicità non è un'utopia. Come continuava? Donna, gridalo, io sono mia. Gioia, la gioia, la gioia, a noi non spaventa, donne si nasce, streghe si diventa. Manifestazione notturna contro la violenza, 27 novembre 1976. Guerriglia. Noi facciamo l'amore e anche la guerriglia, l'amore fra di noi e l'amore con la gioia. Ma per fare la guerra non abbiamo diritto, ovunque ci sono uomini, ovunque si combatte. Prenderemo le fabbriche, prenderemo i giardini e coglieremo fiori con le nostre mani. Sui nostri petti metteremo ginestre e danzeremo mangiando grappoli d'uva. Prenderemo gli zoo e apriremo le gabbie, e viva gli uccelli e basta pulire le gabbie. Ci dondoleremo al collo delle giraffe e l'amore fra di noi e agli uomini la guerra. Prenderemo il sole e lo metteremo su un treno. Avremo dei berretti da meccanico. Andremo in Cina con la Transiberiana. E poi che ci frega, tutto quel che facciamo è bene. Documenti del femminismo francese, 1972. A life like this. Leli Nunio. Gli astri intorno alla luna bella, cielo nel chiaro viso, quando colma di lume più dilaga sopra la terra. Saffo. Libertà, libertà, quanti delitti si commettono in tuo nome. Questo l'ha scritto Carlotta Cordei. Lavoro. Il lavoro è una delle grandi perversioni della società patriarcale. Lilith. Secondo l'alfabet Ben Sira, uno dei primi commenti ebraici alla Bibbia, in principio Dio creò l'uomo e la donna. Egli formò Lilith, la prima donna, dalla polvere come aveva formato Adamo. Nonostante fossero stati creati insieme dalla stessa polvere, Adamo pretendeva di essere superiore, imponendole di giacere sotto di lui nella posizione del missionario. Piuttosto che accettare l'assurda imposizione, Lilith preferì lasciarlo e vivere da sola sulle rive del Mar Rosso. Là ella trovò la pace e sessualità sull'arenile roccioso intorno al golfo di Aqaba. E Lilith non rinuncia alla propria integrità e indipendenza, anche quando Dio, invocato da Adamo, le invia angeli per convincerla a tornare. Lesbismo. La prima volta che lessi Saffo, mi piacque la sua poesia. La prima volta che amai una donna, capii perché. Libera sessualità, ovvero fine della forzata omosessualità maschile patriarcale. L'umanità soccomberà se l'uomo si impunterà sul principio patriarcale onanistico omosessuale della società. Alice Pilgrim. Non si capisce. No, non si capisce niente. Marilyn, ti sei ammazzata, ma loro non l'hanno mica capito il perché. Han detto perché invecchiavi, quei porci di 50-60 anni, e te che ne avevi 37. Né si sono mai accorti di come li prendevi in giro, quando con una femminea derisione squassavi le solide natiche sotto i loro nasi di bestie oppiate. Li hai inchiodati all'altezza del tuo culo, Marilyn. Mentre col tuo genio giocoso davi loro non la donna che non potevano conoscere, ma la caricatura di essa, fatta su misura per occhio unidirezionale dei loro cervelli di cavallo. I cavalli ce l'avranno a morte con questa poesia, ma non hanno capito il perché, ma li è scombussolati, procurandoli un'isteria che continua. Maria Teresa d'Antea. È del 74 questa poesia. Matriarcato. Il matriarcato, la civiltà primaria, la società delle donne, l'era delle divinità femminili, la plurimilleraria cultura imperniata sul ruolo centrale della donna, non significa dominio della madre, perché il principio di dominio è un'invenzione maschile derivata dal diritto patriarcale. La società della donna non è prevaricatrice e non lo è mai stata nella sua lunga espressione originaria. Mia, io sono mia. Tua, tu sei tua. Matrimonio. Un anello d'oro con dentro il sole? Bugie, bugie, dolore, dolore, bugie. Due femministe parlano tra loro. Una dice: io non sono razzista, ma non vorrei che mia figlia sposasse un uomo. Pippi, pippi, padre, padrone, pappone, puttano. It's all my head. I'm only you and me. Abbiamo letto La Bruca, sillabario della sotterraneità, di Lara Foletti e Aleandra Trentini. O meglio, della Bruca abbiamo letto alcune citazioni, alcuni pensieri e alcune parole in ordine alfabetico. Ricordiamo che si tratta di un libro del 1979, quindi forse anche un po' datato, ma molto carino, un gioco che le autrici hanno fatto per fissare, ma anche per fare, perché no, una enciclopedia, una donnipedia, una femmipedia del pensiero femminista che appunto in quegli anni, nel 1979, iniziava ad emergere forte. E quindi leggiamo dalla quarta di copertina: la sotterraneità è la storia e la cultura ancestrale delle donne che, espressa in vitalità e in forza, rivive continuamente sia nella coscienza individuale sia nello scambio politico collettivo. L'acqua, la terra, la luna, l'albero della vita, la bruca, fanno parte della simbologia di questa antica memoria sotterranea. Nella sotterraneità la memoria creativa diventa azione, gesto, quotidianità, linguaggio, solidarietà, risata, ricostruzione positiva della lotta, delle lotte. Diventa l'agire insieme e allo scoperto per la trasformazione sociale e la riconquista della nostra vitalità quotidiana. Open ground, I wanna be back.